sei un giornalista di merda, perché tu stimoli andare al cesso. Quando sento te mi viene voglia di cagare, perché tu hai una capacità di fare giornalismo pari a zero, ok? La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Zanzarosi, ho solo un messaggio per il mister. Mister Trapattoni, non mollare, sei il numero uno, sei, mandali a cagare sti bigotti qua, tu sei il numero uno, sei. Ciao, ciao a tutti, ciao. Non me ne frega niente. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, voi vi aspettate che io dica qualcosa, Parenzo, sulla vicenda del governo dei petrolieri, il governo servo dei petrolieri o comunque schiavo della lobby del petrolio che scrive i provvedimenti praticamente insieme ai grandi gruppi petroliferi? No, non è che lo dico io, lo dice un esponente del Partito Democratico che è il governatore della Puglia, non lo dico io, appunto, lo dice Emiliano. Appunto. Però, ovviamente voi potete dire la vostra, potete dirci se pensate che questo governo fa schifo e debba essere cacciato a pedate nel sedere dopo questa vicenda della Guidi, la Boschi è implicata, è come dice Di Battista, anzi sentiamo subito Di Battista, ma quello dei 5 Stelle che dice praticamente la, com'è che la chiama, la nostra signora, sentiamo Di Battista. Ma ci rendiamo conto di quello che sta succedendo? Lo scandalo del petrolio si sta allargando in maniera incredibile. Questi hanno le tasche gonfie dei soldi nostri e le mani sporche di petrolio. Ma ci stanno coinvolti tutti politicamente: Renzi, la Boschi, Maria Petrolia, da ora in poi la chiameremo. Maria Petrolia Boschi. Poi c'è Renzi che praticamente ha fatto accuse gravissime però su questo. Sì, cioè che hanno le tasche piene di soldi della lobby dei petroli. Queste sporche del petrolio, eccetera, eccetera. Questa è una stupidaggine. Il PD dice che vuole portare A meno che non risultasse che qualcuno ha finanziato la campagna elettorale. A meno che. E comunque il PD vuole portare in tribunale Grillo per alcune cose che ha detto. Ma lasciamo perdere queste cose qui. Una frase di un assessore a Milano, perché è bello quando un assessore milanese come la signora Carmela Rozza, ottima persona, sì. Rozza di nome e di fatto, si potrebbe dire, no? E con una vernice, pare una vernice che di quelle che si cancellano. No, pare, si cancellano. Una macchina parcheggiata male, usa la parola stronzo. Beh, meraviglioso. Mi sono veramente emozionato. Perché uno dice, questo che ha parcheggiato male la macchina in una zona dove non si poteva, passando sopra un passaggio per i disabili praticamente, è uno stronzo. Non hai idea di quanto mi costa transennare tutti i marciapiedi delle scuole. Tutti gli accessi sui marciapiedi delle scuole che noi lasciamo sono quelli per i disabili. E sto stronzo, mi permette il termine, ha usato lo scivolo dei disabili per salire su quel marciapiede. Chi parcheggia male la macchina, chi la parcheggia in un posto dove non si può mettere, è uno stronzo. Bello, bellissimo. Cominciamo a sdoganare tutte queste parole qui. Cioè, gli assessori si devono esprimere in questo modo. Si devono esprimere in questo modo. Perché almeno sono più vicini. Adesso non ne frega un cazzo, è di sinistra, di destra, ha fatto bene, ha fatto male. Si è aperta una discussione. Cioè, un assessore può andare con uno spray, pare di quelli che si cancellino, cioè sì, senza danni. Sennò sarebbe stato danneggiamento, dai. Oppure no, dai il cattivo esempio, oppure no. Addirittura qualcuno dice, no, violazione della proprietà privata, danneggiamento, eccetera, eccetera. Tutto questo a Milano accadeva, nella città di Milano. Allora, prima di farvi ascoltare i file di Renzi, ma le voci che di Renzi. Musica, ma senti che colonna sonora, ma che trasmissione è le voci? Aspetta, notizie del giorno. Ma che cazzo pazzesco, fai? L'elogio della trasmissione dove stai? Allora, che sei impazzito? Allora, ma no, la parte più bella è questa, la parte migliore. Le musiche, le cose, le notizie, le cose. E la parte. Fate questo, te lo dico io. Prima di sentire le voci di Renzi contro la magistratura, vedi, in pratica tutte le voci, bellissimo. Vedi, dai, su. Il sommario del giorno. Le voci contro la magistratura, in praticamente come Berlusconi quando attaccava le uguale, procure, no? Uguale. Dicendo che tanto non si arriverà mai a sentenza. Uguale. Che iniziano uguale le inchieste solamente. No, inchieste pilotate. E poi, per non parlare della Boschi, la Boschi dice siamo contro i poteri forti. Ma no, scusa, ma adesso ragionandoci un attimo, no? Contro i poteri forti, ragazzi. Ma avete messo tutti là? Cioè il governo ha nominato nelle. Chi sono i poteri forti? No, le grandi cantone, aziende. Scusa. No, ma hanno nominato chiunque vicino a loro. Renzi ha nominato qualsiasi persona, praticamente sempre nel circondario di Firenze, pescandola lì. Ma comunque chiunque, alla RAI, l'ENI, certo, tutte le aziende hanno nominato uomini certo suoi. Dove stanno i poteri forti? Ce l'ha lui i poteri forti. E la Boschi dice siamo contro i poteri forti. Le indagini sul petrolio in Basilicata ci sono più o meno quando le Olimpiadi, nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Ci sono stati arrestati, è ora il 2016, è saltato il 2012, ma non so perché. Ci sono state più di una indagine, non si è mai arrivati a sentenza. Un paese civile è un paese che va a sentenza. Intanto centrodestra a Milano, noi ne abbiamo per tutti, eh? Non è che ce ne frega niente, centro di sinistra, centrodestra, centro, leghisti, Lega, non leghisti, eccetera, eccetera. A Milano, beh, c'è un candidato che si chiama Parisi, che è romano peraltro, anche se abita a Milano da un sacco di tempo, il quale dice che ci vuole una moschea. Ora, la Lega ha nulla da dire, siccome Bertolazzo se lo so magnato per molto meno, questo ha detto che c'è bisogno di una moschea bravo, a Milano. Bravo, Parisi. Non so, per te bravo, per me no, per esempio, però va benissimo lo stesso. Lucido, c'è, lucido. C'è bisogno di una moschea a Milano. Sì, e i leghisti che dicono. Lucido. C'è bisogno di una moschea a Milano? Bisogna farlo però secondo certi criteri, sapendo chi sono i finanziatori, sapendo, garantendosi. Vabbè, questo lo sappiamo, i finanziatori, eccetera, però eccetera. Ha fatto bene a dirlo, bravo. C'è bisogno di una moschea a Milano, sì, candidato di centrodestra, candidato di centrodestra. Adesso in teoria Salvini si dovrebbe alzare e dire no, questo non può essere il nostro candidato, perché noi no moschee, no campi rom, no, no moschee, no campi rom, questo è lo slogan leghista. Allora, detto che ho portato mia figlia a vedere Zanzarina nel weekend, l'avete caro Parenzo. Salvata, spero. Ma adesso non lo so, questo casomai lo comunicheremo più avanti, ufficialmente con una nota ufficiale della Zanzara. No, sto scherzando. Sì, sì. È stata, diciamo, per il momento, è sotto la mia tutela, diciamo, è sotto la mia tutela. Poi vedremo che cosa fa. È sotto la mia tutela. No, va salvata, va salvata. Stava benissimo, abbiamo visitato allevamenti, mucche, 300 capi di mucche che verranno uccise per fare la carne, beh, che vengono quello utilizzate per fare il latte. E ti dico che il signore che è venuto qua, che si chiama Pelli, è stato anche minacciato, no. Riceve al suo ristorante telefonate da parte di animalisti. Poi per fortuna ci sono, c'è la figlia, la moglie che se ne fottono, donne della Brianza, di Lecco, con due coglioni così, famiglie con due coglioni così, di fronte a questo vassallo, per esempio. Ne vogliamo parlare del signor Vassallo. Signor Vassallo, che assurdo, abbiamo creato. Pulisco le ascelle con Vassallo. Abbiamo io creato praticamente un personaggio, cioè sì, questo qua, chi lo conosceva questo signore biellese, no, Vassallo? Ma poi l'ho visto di persona, ma poi l'ho visto in TV alla ieri, bianco e demacciato. No, ma deve mangiare un po' di carne. Gli manca il ferro. Vabbè, adesso io, a me non piace attaccare le persone sul piano fisico. Molti no, hanno detto guarda ferro, questo visto, qua. Anche a me mi dicono sempre le occhiaie, eccetera. Infatti devo mangiare più carne. A me più, me le dicono in tutti i colori. Però non voglio attaccare le persone dal punto di vista fisico. Me ne fotto di spinacio, me ne fotto se è bianco, non è bianco, se è maciato, se c'hai i capelli ricci, se sembra uno scheletro, se sembra un. Non mi interessa. No. Non mi interessa. Signor Vassallo, che verrà querelato per aver imitato del pedofilo, lo ricordo sì, sempre. Molto bene. Querela molto che bene. Mostrerò in pubblico che sta per partire. Molto bene. Ufficialmente, vabbè, abbiamo messo a disposizione i migliori legali del Sole subito. Abbiamo chiamato subito. Praticamente subito, ha annullato cosa? Una manifestazione che aveva indetto per mercoledì. Dopo la figura di cacca che ha fatto alle Iene, figura di merda assoluta, dicendo delle cose assurde. ma risentiamole. Chi è Cruciani? Un adattato alla vita sociale, una parola idiota. Se ti presenti con un salame in mano, che comunque noi lo vediamo come un pezzo di un animale che è stato ucciso, quanto manchi di rispetto, è normale che magari quel salame qualcuno te lo possa ficcare in culo. Non è una moda, è semplicemente rispettare gli altri esseri viventi. La violenza genera violenza, il rispetto genera rispetto. È così grave la situazione? Quello che è stato fatto ai tempi di Auschwitz, adesso lo stiamo facendo agli animali. Se un essere umano compie un reato, viene privato della libertà. Ma gli animali che cosa hanno fatto per privarli della libertà? E quindi? Gli allevamenti devono sparire. Qual è il vostro obiettivo? Arrecare danno a aziende che sfruttano gli animali a scopo di lucro. Come? Chiedendo sanzioni, sequestri. Poi, quando la legge non funziona, bisogna infrangerla. Cioè? Ragazzi, avete rotto i coglioni con gli allevamenti di cani per la vivisezione. Lo dici una volta, due, tre, cinque, dieci. Puoi essere paziente, anche dirlo 20 volte. Ma quanto hai rotto i coglioni? Amico mio, io vengo a casa tua. Se vedo una signora con la pelliccia in mezzo alla strada, mi fa piacere cercare di danneggiargli la pelliccia. Se vedo una persona che si mangia un panino, se ho la possibilità ci sputacchio dentro. Sputare sopra il panino, un panino col salame. Poi questo tizio non ha il coraggio di farle queste cose, eh. Per esempio quando dice il mondo è piccolo prima o poi, una minaccia diretta, eh. Signor Vassallo. Cruciani, ricordati una cosa, il mondo è piccolo e prima o poi qualcuno ti troverà. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Tra la zanzara. Ma quando dite libero salame in libero stato, con salame intendete salame o intendete Cruciani? Allora, ieri all'Arena di Giletti ha parlato un tizio, Parenzo, sarebbe stato da mettergli veramente le mani addosso, quasi. Quasi, perché poi non bisogna mai toccare nessuno. Però c'era Muccino ieri. Muccino che ha parlato male del fratello, ma non è una novità. Insomma, ha rivelato una cosa molto importante, certo. Cioè che praticamente il fratello picchiava l'allora compagna. Questo secondo lui? Sì, sempre, secondo lui, ovviamente. C'era un tizio che fa parte dei forestali siciliani, mitici forestali. Sai che tra i forestali siciliani c'è un sacco di gente sotto indagine, pare decine e decine, se non addirittura centinaia e centinaia di condannati. Condannati. Si è presentato un signore che si chiama, non so se era un servizio oppure studio, credo che fosse un servizio, un signore che si chiama Campanella. 4 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Buono, senti, c'ho Campanella. Una condanna definitiva, interdetto dai pubblici uffici. Ma questo reato risale al 93. Posso chiederle i motivi per cosa era? Perché alcuni anche per mafia. Esatto, per concorso esterno. 4 anni. Però ho preso i benefici e me ne ho fatto 3 anni e 6 mesi, 3 anni e 4 mesi di galera. Cioè, sicuramente è tutto regolare, però uno che ha fatto 3 anni e 6 mesi è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, che può tranquillamente entrare a far parte temporaneamente, con contratti temporanei, probabilmente, dei forestali siciliani. Ma tu capisci che siamo perduti, sì, capisci che non c'è speranza, non c'è alcuna speranza. Senti, e poi dice pure che i soldi se li fottono i politici, senti. Dicono che Crocetta ha fatto questa operazione per risparmiare soldi e fare... Ma io risparmiare soldi si fottono io di picciolo. Ci sono certi indagati alla regione. Chi si è preso 200.000 euro e lavora sempre là. Per lei è ingiusta questa storia? È ingiusta perché ci daranno ragione a tutti. Il momento che arriva una comunicazione prendo l'avvocato. Devono avere paura, la forestale non si tocca. E da un certo punto di vista ha ragione, perché non l'hanno mai toccati. Sì, cioè, infatti. Ha ragione, non è che devono avere paura, perché tanto non succederà mai nulla. Non cambia nulla. Nulla. La paura la devono avere loro, quelle che si hanno mangiato una regione, noi, quando ci hanno dato i voti, la forestale non si tocca. E ora ci sta toccando. Ma come? Una che è una mattina e dice Io tutte queste persone se ne andavano andare fuori e io dove vado a mangiare? Si dico, Crocetta, dammi mangiare e me ne vado con te. Si può pretendere che in un paese normale chi è stato avuto una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa non abbia nulla a che fare con lo Stato? Cioè, si può pretendere una cosa molto semplice oppure no? Bah. Vabbè, Roberta, provincia di Milano, iniziamo! Vai! Buonasera, buonasera! Dimmi! Buonasera, insomma io volevo raccontare la mia esperienza, io scrivo per il Corriere della Sera, faccio il critico gastronomico e volevo raccontarvi la mia esperienza. Sì, dopo dimmi, che hai un viva voce? Hai viva voce? No, dopo aver scritto un articolo sui menù, no? Come faccio tutti gli anni, i menù proposti per i milanesi per il menù pasquale, il titolo conteneva la parola agnello. Solo per il fatto che conteneva la parola agnello, e sappiamo che i titoli non li fa il giornalista, ma vabbè, li fa il capo. Questo la gente non lo sa. Sono stata, sì, non dico minacciata come nel suo caso, però diciamo che ho ricevuto attraverso i social diverse minacce di due tipi fondamentalmente. In una mi dicevano, insomma, tu dici questo perché non sai come muoiono. Ma che tipo di minacce hai ricevuto, scusa? Beh, parolacce. Sì, devi morire, e poi, muori tu, queste cose qua. Sì, anche parolacce, insomma, che si epiteti che si danno, insomma, le vabbè, donne, puttana, troia, eccetera. Queste. Vabbè, e poi anche, ma per esempio ci ho fatto non tanto perché ho espresso il mio parere, ma semplicemente perché ho detto che i menù milanesi contengono ancora come seconda portata l'agnello. Quindi è un dato di fatto questo. Ma ragazzi, è pieno di pazzi in giro, ma no. Esatto. E la seconda cosa, facendo il critico gastronomico, mi faceva piacere raccontare della mia esperienza, perché magari non tutti i giorni le incontrate, mi capita di andare a delle riunioni con altri giornalisti e mi sento rispondere da giovani food blogger: no, io sono vegana, sono di sinistra e sono vegana. Quindi due sostanzialmente riflessioni ho fatto in questi giorni. Primo, che si sta creando questa assurda associazione mentale per cui se sei vegana sei di sinistra. No, è una stupidaggine, bravissima. No, ma è pieno di gente di estrema destra che è vegana. Esatto. Ma non c'entra niente, assolutamente non c'entra nulla. E seconda cosa, come può un critico gastronomico che deve giudicare l'esperienza gastronomica nella sua totalità? No, ma se ne deve fottere. Non mangia carne. No, ma se ne deve fottere. Tra l'altro, l'agnello e il piccione, che sono due carni di cui voi avete parlato nelle ultime trasmissioni, sono esattamente la prova dello chef. Cioè noi quando andiamo a provare un grande chef stellato, noi dovremmo ordinare agnello e piccione. L'agnello e il piccione sono i due banco di prova di un grande chef. Bene, grazie. Sì. Andiamo a Cuneo. Riccardo, vai. Riccardo, vai. Dov'è? Niente, Maurizio, Milano, vai. Eccomi, ciao Cruciani, ascolta, io devo dire una cosa semplice: gli animalisti dicono che tutti gli animali sono uguali, quindi che il cane, il gatto, uguale all'agnello, eccetera. Benissimo, mangiamo anche i cani e i gatti. Guarda, poter essere libero di mangiare anche i cani e i gatti. Guarda, purtroppo nella società contemporanea ci sono un sacco di convenzioni, tra cui quella che gli animali di compagnia non si possono mangiare. Io ho mangiato una volta, come sapete tutti e come ripeto per l'ennesima volta, il cane in Corea. Non mi è piaciuto particolarmente perché c'ha un sapore dolciastro. L'ho fatto per fare un servizio radiofonico che peraltro devo ritrovare, Parenzo. Non riesco a trovare questo maledetto servizio che risale al 2002, dunque a Corea 14... del Sud, immagino. Sì, assolutamente, 14 anni fa. Però siamo in un paese libero, quindi secondo me dovremmo essere liberi di poter scegliere. Allora, le leggi impediscono in questo momento di cucinare cani e gatti. Ma meno male, io non lo so se è meno male o no. Ma perché c'è ogni paese ha la sua storia, le sue convenzioni. Però bisogna essere coerenti. Se ci fossero cani e gatti di allevamento, come succede in altri paesi, a me francamente. Ma non è che è un obbligo. Se tu lo vuoi mangiare, lo mangi. Se non lo mangi, non lo mangi. Cioè, se non lo vuoi mangiare, non lo mangi. Cioè, non capisco. Cioè, non... Io all'inizio pensavo, no, che orrore. Vabbè, ma tra l'altro, che male c'è? Sono cani e gatti di allevamento. Non è che te prendono il gatto da casa, il tuo gatto te lo rubano e se lo mangiano. No, ha ragione l'ascoltatore. Cioè, se vogliamo essere coerenti fino in fondo, non c'è nessuna differenza tra una mucca e un cane o un gatto. Nessuna differenza. Ci sentiamo dopo il GR. La zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiana. Si impara all'estero, l'importante è imparare ai migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia. Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori. A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera Millesimato, l'IRP di Infracom Italia, per le aziende vitivinicole, sempre col TH. La Zanzara. Messaggio urgente per Parenzo. Domenica sono andato a Roma Centro, ho parcheggiato a Lungotevere. Parcheggio, appena che tiro il freno a mano si avvicina il rom. Capo, per stare qui sono 2 euro fino a stasera. Se non era che mia moglie mi fermava, lo buttavo dentro al Tevere, lo stavo a buttare. Ritorno dopo 2 ore e mezzo, tutta la macchina graffiata, dall'inizio alla fine. Eccoli qua gli amici tuoi, Parenzo. Spero che succeda anche una cosa del genere a te. Sì, ma ragazzi, non è che Parenzo è a favore di quelli che rigano le macchine. È pazzesco, eh. Dai, su, non esageriamo, dai. Franco da Milano, vai, 800 24 00 24, vai Franco. Franco! Frank? Franco? Massimiliano, Roma! Cruciani? Massimiliano, dimmi, dai! Eccomi, Giuseppe, senti, io ti devo ringraziare, c'ho un po' di mal di gola, c'ho la voce bassa, ti devo ringraziare, mi stai facendo lavorare come un dannato. Io perché? Che è successo? Sono contento perché? Se lavori grazie a noi, che è successo? Fantastico, ti voglio fare il monumento, Cruciani! Perché io nel 2008 ho chiuso un'attività, nel 2009 ho aperto un negozio per cani. Sto lavorando tantissimo, non ti dico che mi chiedono. E perché grazie a me? Non ho capito. Perché sì, si parla molto di te, sono avvelenati, io ti do contro con loro, perché dico sì, Cruciani, un disgraziato, mi tocca essere consenziente, capito? Consenziente. Sì, non può capire come sono matte queste. Perché? Che chiedono? Perché ti comprano di tutto, fanno le feste, guarda. Per esempio, cos'è la cosa che comprano di più? Scusa, che negozio hai tu, Massimiliano? Spiegami. Io ho un negozio di articoli per cani, non ti dico dove, perché se mi riconoscono non vengono più. Ma che tipo di articoli? Di tutto. Qual è la cosa che costa di più? Qual è? La cosa che costa di più, guarda, dovrebbe essere il dondolo elettrico per il cane. Dico, se la che vuol dire il dondolo elettrico? Il dondolo elettrico, quello per tua cioè, figlia. Esiste un dondolo elettrico per i cani? Mi hanno detto così, sto facendo una ricerca su internet e sì. Per vabbè, allora non ce l'hai allora. No, io adesso no, lo sto ordinando, me l'hanno ordinato, io lo sto cercando. Il dondolo elettrico. Come il dondolino, no? Dondolino, però il dondolo elettrico per i cani. E poi un'altra cosa, io adesso sto cercando di, perché ho trovato, guarda, ti giuro, Cruciani, sei fantastico, il monumento. Ho un terreno, un pezzo di terra sull'Ardeatina, al Divino Amore, io sto cercando di fare un'agenzia funebre per cani. Beh, questo è buono, eh? Ma agenzia funebre per cani, sì, ne abbiamo già parlato una volta, di gente che crema i cani, sì, queste cose qua, gente che vuole... No, li sotterro, gli faccio tutto, gli faccio tutto io. L'abite, lo sotterro sulla terra mia, gli metto la zanzara per l'imprenditoria italiana in questo caso, cioè aiutiamo le persone ad andare ad acquistare materiale per cani, per carità, tutte va benissimo. Tutte matte. Ciao, Massimiliano. Ciao. Davide, sempre Roma, vai, Davide. Sì, buonasera. Dimmi. Ma io non conosco la trasmissione. Sì. Ce ne faremo una ragione. Sì. Lei sta chiamando qua, stai chiamando qua. Telefonando qui, quindi stai chiamando qui. Qualcosa conosce? No, non conosco niente. Comunque non conosci niente. Hai preso il telefono e hai fatto un numero a cazzo di cane. Non ho capito. Esatto, ho fatto un numero alla cassa di canna. Comunque sta di fatto che sì, sicuro, infatti, fa... chissà perché hai fatto 0800 24 00 24, così, senza sapere né leggere né scrivere. Comunque no, ho scoperto, okay, cioè, sono andato fuori con delle persone di Roma, siamo andati a cena, abbiamo sì, conosciuto delle ragazze, sì, una di queste sì, era una sua ex fidanzata, una chi sua sarebbe? Ex... Nome, cognome, chi è? No, non mi sento di... Ah, uno chiama qui, ho conosciuto una tua ex fidanzata. Io dovrei crederti. Un po' di veleno, dai, benissimo. Io dovrei crederti, non ho capito. Comunque, vabbè, andiamo avvelenata. Non è che sia tenuto a crederti o no. Cioè, voglio dire, sì, però ti voglio far presente. Andiamo avanti nel racconto. Che hai chiamato tu. Ti voglio far presente che hai chiamato tu, non io. Comunque, vabbè, andiamo avanti, dai. Sì, no, ma io non la conoscevo. Non la conoscevo. Hai conosciuto una mia presunta ex fidanzata. Una che si è proclamata mia ex fidanzata. Vabbè, insomma. Esatto. Siccome i numeri sono molto ampi da questo punto di vista, cioè sono molto grosso, i numeri sono grossi. Lei, cioè nel senso che comunque. No, cioè, ma comunque no, non me ne sto parlando. Ma chi ha detto questa allora? Il motivo della chiamata non era questo. Sì, no. Cosa avrebbe questa detto? Questa persona qua, quando mi ha capito così, mi ha detto: guarda, che io sono la fidanzata, se ero la fidanzata di questo qua che lavora in radio. Ho detto, sì. Non so chi sia. Sì, tu hai detto che non sapevi chi era, sì. Insomma, cioè, se non conosco chi siete, cioè, voglio dire. Ma non è un problema, vai avanti, però, amico mio, vai avanti. La mattina sono andato sul Rola di 24 e mi sono messo. Va bene, abbiamo capito. Cosa ha detto questo qua? Qual è la... Perché mi volevi raccontare questa cosa? Non ho capito. Niente, perché non aveva detto delle cose molto, molto rassicuranti su di lei. E che cosa ha detto in particolare? Ma che praticamente era una persona un po' violenta, una persona un po'. Io sarei stata una persona violenta. Così mi è stato detto. Siamo alla delazione più assoluta. Sì. Però, meno male che noi veramente sì, facciamo parlare chiunque. Incredibile. Cioè, veramente facciamo parlare chiunque. Cioè, chiamo un tizio, Davide da Roma. Si può dire qualunque cosa, ma questo veramente. Dai, cioè, diciamo che chiama Davide da Roma, che avrebbe conosciuto la mia ex fidanzata, alla quale gli avrebbe confidato. Vabbè, ma anche ruba comunque. Ha accusato anche di stupro. Sì, è stato Crugiani. Beh, sì, uno mi ha dato del pedofilo. Sicuramente. Vabbè, Davide, dopo questo racconto accurato e così interessante di una mia ex fidanzata che dice che sono violento, poi. No, a questo punto qua puoi andare serenamente a fare in culo oppure a questo punto qua che succede? No. A questo punto qua è interessante. A questo punto? A questo punto? Cioè, però se mi lasciate parlare bene, se no, altrimenti... Ma però parli, ma è mezz'ora, dice che sembra il mistero, capito, il giallo, chiamiamo il tenente Colombo, che roba è? Non fai parlare nessuno. Perché sei sempre dietro a interrompere. Vai Davide, su, a questo punto qua che succede? A questo punto qua, siccome questa persona mi interessava come persona, come donna, eccetera, eccetera, ho cercato di conoscere un po' meglio e quindi ho cercato di verificare chi fosse questo signore che lavorava in radio. Vabbè, hai scoperto che si trattava di Crusciani, dunque? Esatto, e adesso ho cercato di chiamare per capire chi fosse. Siamo a nulla più assoluto. Arrivederci Davide, buona giornata, arrivederci. Davide, io chiamerei l'assessore Rozza per farmi. Io non ho ancora deciso se prendere posizione o no contro l'assessore Rozza, quella che ha imbrattato quella macchina, no? Parcheggiata male a Milano. Sì, ottimo, bravissima. Pronto? Buonasera, sì. Assessore? Sì, buonasera. Salve, sono Crusciani, grazie. Con Parenzo qui, salve, buonasera. Ciao Carmela. Buonasera. Come stai, cara? Benissimo, tu stai bene? Beh, mi difendo, ma volevo farti siete amiconi, Siete amiconi. Ci conosciamo da parecchi anni. Direi. Io ho sempre avuto rapporti con sinistra. La migliore CGL italiana, la migliore. Parenzo la migliore. Con i sindacati, la sinistra, al solito. No, vabbè. Allora, io voglio dire una cosa, non so se difendere l'assessore Rozza oppure attaccarla. Dovresti di petto. Dovresti farlo. Allora, perché da una parte a me veramente mi stanno sui coglioni quelli che parcheggiano male, ma veramente non riesco a sopportare. Dunque, capisco e vorrei ogni tanto quando qualcuno parcheggia male fare qualsiasi cosa. Però lei, cara signora Rozza, lei fa l'assessore, cioè non è che non è che è un passante, no? Per cui uno potrebbe dire, siccome l'assessore fa così, adesso io, se qualcuno parcheggia male, piglio una chiave, piglio una bomboletta spray e rovino la macchina a qualcuno. Allora, io ho già fatto le mie scuse pubbliche ai cittadini di Milano. Ma e le dico che mi sembra chiaro che è stato un gesto sopra le righe per il ruolo istituzionale che svolgo. Non lo farà più. No, passo il cartello. Non col rullo, ma col cartello. Come col cartello? Che vuol dire? Se io avessi fatto mettere ai bambini un bel cartello sul vetro, appoggiato naturalmente senza fare nessuna violenza, sul vetro, sul cruscotto dell'incivile, con su scritto sei un incivile, sarebbe stata una cosa più che positiva. Ah. Quindi non col pennello, ma col cartello. Col cartello, vabbè, però secondo me lei ha chiamato questo qua uno stronzo, conferma? Questo è uno stronzo? Sì, assolutamente. Uno stronzo. Un grande stronzo. Propri di uno spazio riservato. Brava, brava. Addirittura la sicurezza dei bambini è uno stronzo, perché è minimo, perché non ha nessuna attenzione verso l'altro. Scusi, questa è la sinistra che governa e che ci piace, capito, Crugiani? Come dice un assessore, quel cittadino è uno stronzo? Perché la parola stronzo detta da un assessore mi fa emozionare, me la può dire per favore? Chiunque io ritengo si appropri dello spazio pubblico per farne uso privato e se ne frega degli altri cittadini è uno stronzo. Ah, che bello, la parola stronzo pronunciata da un assessore mi fa emozionare. Sì. Ma io non ho capito, quel tizio era salito pure su una rampa dei disabili? Esatto, per infilarsi con la macchina lì è entrato dalla rampa dei disabili a marcia indietro e ha messo la macchina tra il muro della scuola e le barriere che sono costate 10.000 euro di sicurezza per i bambini, per impedire ai maleducati e stronzi di salire su quel marciapiede. Però scusi assessore, se lei è così convinta di questo, di avere fatto tutto diciamo senza danni, perché la vernice mi sembra che fosse lavabile, no? Allora perché si pente? Cioè non capisco il pentimento. Io non sono pentita. Scusi signora Rosa. No, ma non fare politicamente corretto. No, ma non faccio tu. Al contrario. Ma che discorso al fai? Contrario. Tu dovresti dire evviva la Rozza, più vernice lavabile per tutti. Questo qua avete scoperto chi è? Questo signore? È un signore di Mostara, nato in Albania e residente a Mostara, che però è un albanese, un albanese. Pare di sì. Ma quanta multa pagherà questo signore? 60 euro. Così poco? Se le paga. Perché se le paga? Perché mi sembra che spesso molte multe non vengano pagate, se no non avremmo motivo di mandare le ingiunzioni di pagamento. Raddoppierebbe le multe per chi parcheggia male? No, io guardi, sto pensando quasi di proporre di cambiare la legge, visto come si sono preoccupati di aver rovinato il portello alla macchina di questo signore. Forse per legge si passa un segno indelebile in quel caso. Cioè lei metterebbe, una legge per perché così le multe non le pagano, però se si trovano un filo di vernice indelebile magari evitano di mettersi lì con, però lo dobbiamo fare prima la legge. Si deve fare la legge. Fosse per lei si farebbe domani, cioè segnerebbe le macchine con la vernice. Da domani quando ci sarà la legge. Vabbè, sì, comunque fosse per lei farebbe questo. Vabbè, a presto, grazie. Grazie, arrivederci. Saluti. Beh, è arrivata la proposta, La proposta è segnare in maniera indelebile con la vernice le macchine di chi parcheggia male, amico mio. Sì. Segnarle lì, segnarle. Bah. Scusate, io non c'ho un euro. Cosa cazzo me ne frega della borsa? Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Cruciani è come l'amore, come il vento, come Rocco Siffredi in fila dietro di te al supermercato. Non lo vedi, ma lo percepisci. Ma hai sentito che voce o no? Sì, sì. Hai sentito che voce o no? Stupenda, ma la cosa, posso dire una cosa? Una cosa che mi ha stupito moltissimo. Questi amici di Fox che fanno la pubblicità, benissimo per loro. Ma perché devono usare noi? Cruciani e Parenz! Ma che roba è, scusa? Ma guarda, hai sentito o no tu? Sì, ma come non l'ho sentita? Certo che l'ho sentita. Ah, cosa me la Ma io dicevo la voce di questa qua. Sì, la voce capito, di questa. Va bene, d'accordo. Come Rocco Siffredi. Però è una bella metafora. Cioè, si sente da dietro, no? Non si percepisce. Com'è? Fatemi risentire sta voce, dai. Cruciani è come l'amore, come il vento, come Rocco Siffredi in fila dietro di te al supermercato. Non lo vedi, ma lo percepisci. Come cazzo fai a inventarti una cosa del genere? Come Rocco Siffredi in fila al supermercato. Non lo vedi ma lo percepisci. Beh. Allora, ieri sera, durante la trasmissione di Parenzo, ho conosciuto per la prima volta una persona che è un'attrice. Qualcuno dice: dovevi combattuto, amico mio, come hai combattuto? Dovevi conoscerla. Con le tue donne. Dovevi conoscerla. Ma dovevo conoscerla, ma perché dovevo conoscerla? Cannata, come si chiama? Cannata. Sì, Loredana Cannata ha fatto il film di Sorrentino, l'ultimo capolavoro. Ma chi cazzo la conosce? Dai, su, adesso oggettivamente. Una delle grandi arti. Detto con tutto rispetto per le autorità civili, politiche, militari e artistiche in questo caso. Cioè, non è che sono tenuto a conoscere chi perché è la signora Cannata. Conosci solo la Nappi, conosci gli attori del porno, non gli attori dell'altro cinema. Meglio la Nappi della Cannata. No, vabbè, ma che c'è? Meglio la Nappi della Cannata. È anche simpatica, una brava ragazza. Sì, ma qual è la specializzazione? Almeno la Nappi è specializzata nelle gang bang. La Cannata in che cosa è specializzata? Ma è un'attrice internazionale. Sì, ma in che cosa è specializzata? Ma è un'attrice, cosa vuol dire? Io so non si può considerare la Nappi un'attrice, scusa. Non si può considerare la Nappi un'attrice. E l'altra, l'amica, come si chiama? L'amica di Mughini, la Black Tori, lei come si chiama? No, quella è la Tori Black, ma che c'entra? Dai, non... Ma dai! Ma cioè, tu stai paragonando Tori Black alla Cannata? No, tutt'altro. Tori Black alla Cannata. Io sto dicendo che non si può considerare ma un'attrice scherzando. Tori Black. Ma stai scherzando? Dai, quelle ma ragazzi, sono... ma il cinema è una roba seria. Quelli sono su. Miti, leggende. La Cannata è una qualunque, una come tante altre. Per carità, detto con tutto il rispetto delle autorità civili, politiche, militari e artistiche, è una come tante altre. Tant'è che non la conoscevo, invece conosco Tori Black. Moana Pozzi, conosce, è morta poveraccia, la Nappi, persone che si conoscono nel mondo normale, si conoscono, non si conosce la Cannata. Comunque ho avuto modo di conoscerla ieri sera, la signora Cannata, la quale però sostiene delle cose un po' curiose, diciamo. Sì, sì, questo sono d'accordo, piccolo riassunto. C'è ancora la legge che ci dice che lo possiamo fare, quindi è qualcosa di legale, secondo me. Come di c'è non ancora la legge? Ce non vorrebbe legittimo. Cambiare la legge? Assolutamente sì. Cioè, lei vorrebbe vietare l'uso della carne. Ma come sono cambiate le leggi nel corso dei secoli? L'uomo ha capito che bestialità aveva fatto. Allora si parla della superiorità dell'uomo. L'uomo fa cose meravigliose e cose mostruose, quindi bisogna valutare entrambi gli aspetti. Praticamente la signora vorrebbe una legge per proibire il consumo di carne. E poi ovviamente mette sullo stesso piano. Ma questo sembra ormai normale dirlo, capito? Ormai sembra normale ascoltare uno che dice: beh sì, il piccione è uguale a un essere umano. Cioè lo diciamo con una tale nonchalance che sembra ormai tutto normale. La normalità è dire: beh sì, il cane è uguale a Viola, il cane è uguale a Riccardo Poli, il cane è uguale a... Beh, su questo potremmo... Un moscerino è uguale no, a... No, ma il cane è uguale a Poli, il moscerino è uguale a Mercusso. Questo potremmo anche ragionare. Ma dai, su, dai. Ancora, quando dici che ci vorrebbe il reato di apologia, non so che cosa, senti. E come adesso abbiamo l'apologia di fascismo, tutto, ci dai, sarà un tutto. Tempo in cui ci sarà l'apologia dell'alimentazione onnivora. Questo l'apologia, scusi? Dell'alimentazione onnivora. Perché l'apologia dell'alimentazione onnivora? Beh, quelli che sosterranno che è naturale che si debba continuare un'alimentazione onnivora, quando invece fa male agli sarà animali, reato. Fa male a noi, cioè, e fa male al pianeta. Ah, ma questa qua non ho capito se è una comparsa. No, è un'attrice, cioè non fa la comparsa, fa no, l'attrice, cioè recita, forse, dai, stava recitando. Forse stava recitando. No, però, ci crede, la cosa bella, no, cioè forse stava, faccia, ci crede. No, forse stava recitando. No, io ho l'impressione che stava recitando, perché una che dice ci sarà l'apologia, come l'apologia del fascismo oggi, che andrebbe cancellata peraltro, l'apologia dell'alimentazione onnivora, francamente mi sembra una cosa assurda, no? Cioè praticamente se tu sostieni è giusto mangiare la carne, come uno, se uno dice viva il fascismo, no? La stessa cosa. Sì, folle. Dai, su. Oggi è lunedì, si parla anche di pallone, eh? Si parla anche di pallone. Caro Parenzo, il tuo amico Auriemma è quasi scoppiato a piangere. Chi questo? Auriemma. Tu amico Auriemma. Mozzarella, te l'ho detto una volta. Dai, io, grande tifoso del Napoli, commentato da me, è quasi scoppiato a piangere al secondo gol dell'Udinese. Senti. No, no. Gabriel torna tra i pali. Torna tra i pali, Gabriel. Torna tra i pali. La rovesciata. Ma io rido solo, devo solo ridere. Io quando prendiamo questi gol devo solo ridere. Ma devo solo ridere, perché altrimenti dovrei mettermi a piangere in diretta. Mi dovrei mettere a piangere in diretta. Mi dovrei mettere a piangere in diretta. Però è fantastico, è una telecronaca. Io non dico niente. No, ma è una telecronaca fantastica. Mi dovrei mettere a piangere in diretta. Ma sarebbe stato straordinario mettersi a piangere in diretta. Ma senti che succede al terzo gol poi. Auriemma, un mito, una leggenda. Widmer, traversone. E vabbè. Dormiamo. Se dormiamo, dormiamo, ragazzi. Se si dorme, si dorme. Buonanotte. Ora no. Ce lo dicevate, un'amica, venivamo, dormivamo anche noi. Se volevate giocare così oggi, dormivamo anche noi. Beh, sta un pezzo teatrale straordinario. Se ce lo dicevate, dormivamo. Dormivamo anche noi. Non venivamo, rendi, non venivamo. Ma ti rendi conto? Ma perché, che c'è? Scusa, non ho capito. Auriam. Dai. Allora, tornando a parlare di politica, c'è una cosa molto seria, che è la questione, ovviamente, come sapete, di Renzi, che si difende, l'indagine della magistratura, le opposizioni, e non solo le opposizioni, anche all'interno. Anche la minoranza del PD. Vabbè, non voglio sentire questa parola. Tutti non, voglio sentire questa parola qua, la minoranza PD, non voglio sentire queste parole. Allora, senti che cosa scrive un signore molto renziano come Claudio Velardi, eh? Sto seguendo Matteo Renzi alla direzione del PD. Lo dico consapevole di espormi all'udibrio pubblico. Non ricordo di avere mai visto e ascoltato in Italia un leader politico altrettanto forte, appassionato e competente. Crocifiggetemi pure. Nel frattempo sappiate, cari 5 Stelle, leghisti, sinistri PD e non, destre e affini, giornali e talk show, opinionisti e commentatori, twitteri e malati del click di Facebook, che gli italiani nella loro infinita saggezza lo terranno lì parecchio tempo. Per fortuna, rassegnatevi. Allora, la questione però è molto semplice. Nessuno parla di governo corrotto, le indagini della magistratura non mi interessano. È vero o non è vero che ci sono state scambi di mail, rapporti molto stretti tra componenti importanti del governo e le compagnie petrolifere interessate a questa vicenda? Il nodo politico è tutto lì. Se ci sono state, il governo si deve dimettere, perché non è che tutto quanto avviene nella trasparenza. Se ci avessero detto, guarda, stiamo trattando con Total questo, stiamo trattando con quest'altro, o c'è la trasparenza delle lobby, se non c'è la trasparenza delle lobby, devono andare a casa. Questo è il punto, come si dice alla romanesca, no? Devono andare a casa. Devono andare. Va bene, Andrea da Roma, vai Andrea. Sì, buonasera. Io ho chiamato perché volevo coadiuvare quell'assessore lì sul fatto delle multe. Io ho un sistema che secondo me funziona e risolve anche il problema della progressività, cioè chi ha più soldi paga di più. Si dotano i vigili urbani di una bella mazza di quelle da baseball e poi per un divieto di sosta si spacca un faro, così maggiore è la macchina, maggiore il danno e quindi c'è questa progressione. Vabbè, non diciamo cazzate, dai, su. No, funziona, perché così nessuno deve andare a pagare la multa o fare ingiunzioni, perché il faro uno solo cambia. Perché ha ragione la signora, chi ha la macchina tiene di più alla carrozzeria che a pagare una multa, quindi parcheggia senza fregarsene agli altri. Allora, su Andrea, non è che si può spaccare il fanale col no, ma come bravo Parenzo, tu pensi che si possa spaccare? No, ma dico se ma ho capito, ma quello è un istinto, ma è un istinto che può venire a me. Cioè, quando vedo una macchina parcheggiata male o parcheggiata a cazzo di cane, io sotto casa mia a Milano ho delle persone che amico mio, se tu parcheggiano parcheggi posto dei disabili, no, però ci sono delle cose. Capito? Arriva uno si assume la responsabilità di rigargli la macchina. Che devi fare? Cioè, tu righeresti la macchina uno che mette l'auto al posto del disabile? Io non lo so. Hai detto tu? Forse gliela righerei, a costo di prendermi, sì, forse sì. Ma no, ma dai, su, perché non diciamo li metto nei panni, perché se non arriva subito il carattrezzi per portarlo via, tu hai impedito a una persona, a un cittadino che paga le tasse, la tua inciviltà, a un cittadino che paga le tasse, che è un disabile, cioè, che già fa difficoltà. Pur a di appoggiare un assessore di sinistra, tu diresti veramente qualsiasi cosa. No, ma lo direi, è una cosa alla Rudy Giuliani, peraltro, dovrebbe piacerti anche a te. Non è che tolleranza spaccava le cose. Zero. Non è che spaccava. La tolleranza zero non significa spaccare, come zero. Dice, a colpi di però mazza. Però presuppone che ci sia un intervento immediato della forza pubblica, siccome questo spesso non succede. Allora spacchiamo i finestrini delle macchine parcheggiate male. No, non dico, no, dai, quello delle macchine no, però magari, che l'ha so detto, io. Hai detto sì, Andrea, bravo, no, gli hai ma detto, non so Andrea. Se delle, sì, ma ci può anche stare. Vabbè, Eugenio da Milano, vai. Eugenio. Grandissimi. Dimmi, dai, dimmi. Un secondo che tolgo la viva voce. Ascolta, anch'io intervengo sulla rozza. Dimmi. Perché è veramente intollerabile sta roba. Beh, bisognerebbe spiegarlo che siamo a Milano e non a Kabul. Cioè non è che qui l'istituzione spara, prende a martellate le macchine degli altri. Io tra l'altro sono di sinistra, ho votato per la prima volta e ultima nella mia vita probabilmente che non... Vabbè, questo gente adesso qua. Non ci interessa. Vai, questi sono cazzi dei miei in effetti, chi se ne frega. Vabbè, lascia perdere. Comunque, la rozza veramente è l'elemento peggiore che no, si però, possa immaginare. Scusami, via. Scusami. Cioè, perché? Perché non siamo a Kabul e quindi cioè, se ci fanno le multe ci sarà, pagherò la multa, chiaramente è meglio, a parte che poi che figura di merda fai, ma proprio in generale te come assessore, che potevi metterti lì veramente con i bambini a insultare questo personaggio squallidissimo. Veramente l'ha insultato, gli ha detto stronzo. ho capito, l'ha fatto dopo. Invece lì abbiamo visto l'immagine di una che si è messa a dipingere una macchina. Cioè, voglio dire, la Gelmini, torniamo alla Gelmini, abbiamo tirato il culo perché ha fatto l'immagine, perché faceva vedere, uguale, identico. Ha fatto la stessa figura, ancora peggiore, versione vandalismo. Cioè, tu non puoi reagire come istituzione a un atto ignorante con un atto vandalico. Sì, l'atto giusto? Vandalico, lei dice, abbiamo sentita prima, lei dice che in realtà non è rimasto nulla sulla macchina, cioè non era vernice permanente. Però è evidente, qui Parenzo, c'è sempre la solita storia, no? L'avesse fatto un esponente di una giunta di centrodestra, sì, avrebbero detto che è un barbaro. Non la lo sinistra so. Avrebbe poi detto io che è un del barbaro. Merito, non mi interessa il chi lo fa. Io spesso quando non sono così ideologico, non mi interessa se la Lega fa una cosa buona, devo ancora vederla. Sono pronto a riconoscerlo. Devo ancora vederla. Vabbè, allora. Sono pronto a riconoscerlo, ad esempio. Ma quando Salvini alle volte dice ha degli sprazzi di lucidità e dice delle cose che secondo me è giusto. Ovviamente non ti ho mai sentito riconoscere delle cose. No, altre volte dice, quando si sveglia la mattina, una cosa giusta la dirà. Dice, mi sono svegliato, voglio prendere un cappuccino. Dirà una cosa giusta la mattina, già, ovviamente. Eccolo, Matteo Salvini, buonasera, buonasera, ti sei svegliato e hai detto una cosa giusta oggi o no? Ma penso di averne, guarda, mi sono svegliato con i complimenti di due poliziotti stamattina che mi hanno detto tenete duro, quindi è un bel modo di cominciare la giornata. Aspetta, che c'hai, viva voce, cose che c'hai, no, c'ha viva voce, no? Un Nokia E66 vecchio ma senza viva voce attaccato all'orecchio e alla bocca. Bene, allora io non ho capito, l'assessore di Milano Rozza ha fatto bene o male? Adesso, al di là delle cose politiche, non mi dire per forza che ha fatto male a segnare sta macchina con una vernice. Dice, tra l'altro, a noi ha detto una cosa prima, ha proposto di segnare le macchine in modo permanente, cioè ovviamente ha detto io sarei favorevole a una legge che ti dice se tu parcheggi in un posto per un disabile, se tu parcheggi in un posto dove non si può stare eccetera eccetera, ti segniamo la macchina con la vernice, così nessuno subisce un danno e magari nessuno più parcheggia male. Guarda, ha fatto male e lo direi anche se avesse fatto un assessore della Lega. Perché se ha ragione l'ascoltatore, non siamo nella giungla, quindi dove si va in giro armati di macete. Noi abbiamo fatto come Lega una proposta di legge per togliere più punti sulla patente a chi occupa un posto auto dei disabili, che secondo me è la roba più inqualificabile, però non posso andare in giro a rompere gli specchietti o i fanalini o i fanali delle macchine, anche perché un assessore teoricamente dovrebbe far rispettare quelle. Vabbè, quelle però la vernice lì. Io mi ricordo che quando ero andato a protestare i due pesi e le due misure alla Parenzo, quando io ero andato a protestare senza distruggere nulla, ma oscurando per 10 minuti un autovelox assolutamente idiota a Milano in Viale Enrico Fermi o sul ponte della Risolfa, che fa migliaia mi ricordo. Dei limiti, e me ne avevano dette dietro. Vabbè, lì però è diverso lì, tu là sei andato a oscurare una cosa che secondo te era ingiusta per i cittadini, quello occupava un posto passando sopra una passerella di un disabile, un po' diverso. Scusa, falcidiare con migliaia di multe ogni giorno mettendo un limite folle a 70 all'ora chi esce dall'autostrada per venire a Milano. Ho capito, però il comune l'ha amministrato voi per una marea di tempo, a Milano non è che gli autovelox li ha messi quel genio di Pisapia e io li toglierò, almeno quelli, perché l'autovelox ha un senso fuori da una scuola, da un ospedale. Cioè tu toglieresti gli autovelox nelle rampe, in una città. Beh, ma tu hai presente quello all'uscita dell'autostrada da Bergamo, Varese, Torino, dove la gente dovrebbe su una strada corsie. Sì. Adesso se non è una follia quella. Detto questo, non vado a tirarlo giù a sprangate. Evidentemente non vado a sfasciare le macchine, a pitturare le macchine. Senti, demenziale. A proposito di Milano, ma il tuo candidato sindaco Parisi ha detto che bisogna fare una moschea. Attenzione. Io non sono assolutamente d'accordo con lui. Cioè una moschea a Milano non si farà mai. In questo momento, se l'Islam non matura, non sottoscrive la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, non si dà una struttura, una gerarchia, non si modernizza, io non do neanche mezzo metro quadro a Milano, a Bari, a Roma, a Cagliari, ovunque. Parisi si può scordare di fare una moschea a Milano? Assolutamente sì. Si può scordare di fare la moschea a Milano, anche se l'ha detto apertamente, cioè gli islamici devono avere un luogo di preghiera, è meglio così, eccetera. E lui per onestà ha detto che ci vogliono controlli. Vabbè, ma quello è chiaro, quello chi dice il contrario. In questo momento controlli. Non bastano neanche i controlli, perché purtroppo l'Islam è una religione troppo aggressiva. Scusa, e come fate allora? Voi siete alleati su una cosa importante, come per esempio mettere una moschea a Milano, voi siete alleati di Parigi, il quale dice voglio fare una moschea, e glielo impedirete? La cosa bella delle elezioni è che scelgono i cittadini, quindi se il 5 giugno i cittadini decideranno che il primo movimento politico del centrodestra è la Lega, ho capito. E se Parigi vincerà, a quel punto, cioè se voi siete il primo partito, se siete il primo partito, diciamo, non si farà la moschea. Vabbè. Assolutamente. Però intanto il buon Parisi, che è il nostro candidato, ha detto una cosa di assoluto buon senso. Secondo te di buon senso? Secondo me, per esempio, no. Me l'hai chiesto a me, certo, secondo no, me. Beh, certo. No, vorrei sapere cosa pensa quel fenomeno di Parenzo dei 70 immigrati che oggi hanno rotto i coglioni tutto il giorno a Cagliari bloccando la strada per protestare su Riso e Maccheroni. E Maccheroni. Guarda, io su questo idee chiarissime, perché va dato lui vorrebbe, il miglior pranzo possibile. Va dato, cioè, per lui il riso è una roba da poveri, ha detto Parenzo. Il riso è una roba da carcere. Va dato. Ma come da carcere? C'è il riso possibile, carne di, ma io possibilmente spero che lo loro. Perché lo pagano per dirlo, una no, del genere. No, ma lo dice, lo dice. È una questione di civiltà. Ma lo dice perché ne è convinto. Tu quindi mangi la frutta, gli italiani che mangiano riso sono dei poveretti. Ma cosa c'entra? Cioè, secondo lui bisogna il riso, ma non lo pagano oltretutto il riso, che se lo mangiano e se lo pagano. I menù vanno costruiti ad hoc, i menù, ad esempio, pure il menù ad hoc, pure il menù ad hoc. Certamente con la carne che possono mangiare loro, che è quella se sono musulmani. Ma glielo diamo il martedì o il venerdì? Ma che c'entra il pesce? Quei bastoncini Findus una volta a settimana, e qualcuno si scandalizza pure perché gli danno la frutta e la verdura. Che non si vogliono far identificare, mamma che protestano per il riso, vanno messi sul primo barcone e vanno rispediti a casa loro. Con i barconi, tanto riso e tanti lasciamoli stare, punto. I barconi che già li prendono rischiando la vita per venire qua. Porestelle, poi vengono qua a rompere lasciamo le palle. Stare Porestelle. Scusa un attimo, Matteo, tu che cosa faresti con questi qua che protestano anche per strada, occupando le strade perché il menù rifiutano di farsi identificare, rompono le palle alla gente che lavora, bloccano una strada. Cosa faresti? Li carico su due autobus, li metto sul primo aereo e li rispedisco a casa loro. Complicato, perché come si fa a rispedirli per esempio in Siria, se vengono dalla Siria? Non è semplice. Ma no, guarda che propaganda. Quelli che arrivano dalla Siria in Italia sono il 3%. Vabbè, il 3% di siriani che sbarcano in Italia non ce ne sono. Prenderli e rispedirli subito. Ma ti risulta che ci sia la guerra in Marocco? Che ci sia la guerra in Cina? Vabbè, ma questa è un'altra discussione. Comunque tu, quelli che protestano per strada contro il menù... Primo barcone, via. Senti, ma io non ho capito, il tuo amico Putin pare coinvolto ha detto che è stato la CIA lui, non direttamente, ma con alcuni amici, in questa storia dei conti offshore. Che dici? Ma guarda, io ho letto che ci sarebbe un violoncellista. Beh, sì, il violoncellista molto amico di Putin, che c'ha 100 milioni sul conto. Ho capito, ma non è da ridere. Cioè. A me sembra che, poi non lo so, non ho approfondito che me lo specifichino, però se c'è il violoncellista amico di Putin che ha un conto a Panama, adesso mi sembra che gridare allo scandalo sia follia, anche perché mi sembra che a questa stregua, se non erro, leggevo che anche il babbo di Renzi, con qualche società, a conti qui e là, quindi però io non dove ce li ha questi conti? Non ho capito. Conti dove? Scusa, dove ce li ha? Guarda, su ilgiornale.it leggevo prima di collegarmi con voi, poi mi avete chiamato e non a conti alle conti dove? Non ho capito. Conti dove? Offshore. Non ce l'ho aperto, sennò non potrei parlare con voi. Adesso andiamo a controllare. Ma scusa, per esempio, Montezemolo. Io leggevo settimane fa che avrebbe un conto segreto in giro per il mondo da 40 miliardi di euro. Dai, se devono inventarsele, se le inventino meglio. È chiaro che in Russia ci sono dei problemi, per carità di Dio, non siamo qua a santificare la Russia. Ma io ritengo che Putin sia uno dei leader mondiali con le idee più chiare in questo momento. Senti una cosa, ma a Roma, poi torniamo su questa storia dei conti, tu, se ci fosse da scegliere, voteresti Razzi o Bertolaso? No, a Roma dimmi la verità, no? D'accordo, voterai Meloni. Però mettiamo io che voterò Meloni, no, ma perché sennò poi si inventano gli accordi segreti. No, che accordi segreti? 5 Stelle, tutti retroscena. No, lascia perdere. Io ho detto che piuttosto che votare un renziano, voto Parenzo. Vabbè, d'accordo. Tra Razzi e Bertolaso, chi sceglieresti? Ma Bertolaso non arriva al ballottaggio neanche se quindi viene razzi, Pio, dai. Quindi neanche se l'aiuta padre. Vuol dire se il Milan arriva a vincere lo scudetto, temo che sia difficile, quindi Bertolaso al ballottaggio non ci arriva. Manco con padre Pio, dici? Manco con padre se Pio. Giocano a tre, Raggi, Giacchetti, Meloni. Secondo me sarà Raggi, Meloni alla fine. Vabbè, questo lo devi dire, cioè, dovete chiedere a Giacchetti. Ma ammetti che c'è Raggi, una sfida Raggi Bertolaso, di chi ti fidi di più? Di Raggi o di Bertolaso? Non conosco né l'una né l'altra. Vabbè, non mi vuoi rispondere, dai, su. No, ma perché io l'ho già detto, ma poi i giornalisti ci ricamano gli aspetta che c'è la pubblicità, la pubblicità, aspetta che c'è la pubblicità. Voi fate leggermente un po' quello che volete. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Allora ragazzi, siamo qui, La Zanzara. Numeri di telefono, annuncio, numeri di telefono. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, quello che diceva prima Salvini è un articolo, in realtà sono dichiarazioni, Parenzo, di Donzelli, un rappresentante toscano di Fratelli d'Italia, sì, consigliere regionale, il quale dice anche il giro intorno al Premier fa affari grazie a società con sede a Panama, un legame che si intreccia con gli interessi di Lorenzo Rosi, ultimo presidente di Banca Etruria. A Panama società a lui vicine, per cui mi pare una cazzata. Società in cui forse sarebbe consulente il padre di Renzi, eccetera. Cioè, forse si dice come quello che ha telefonato prima, dice io ho conosciuto forse l'ex fidanzato di Cruciani, cioè, lui, che dice che... Cioè, no, adesso dobbiamo verificare, Matteo, non è che si può dire Renzi. No, ma si fanno, qua ci sono nomi e cognomi, la Torrado Holdings, la Tressel. Ho capito, ma si deve provare. Hanno porto di capitale della Ignazia Shopping Mall, che doveva realizzare l'outlet di Fasano in provincia di Brindisi, di cui l'amministratore unico è Lorenzo Rosi, Banca Etruria, per cui ha svolto un ruolo da consulente il papà del premier Tiziano Renzi. Ho capito, consulente per... Sì, ma consulente... O è falso? Non no, è che ma, ma d'accordo, consulente, certo. il padre di Renzi, consulente di una società... La quale società poi avrebbe fatto questo? Cioè, lui era consulente, poteva anche ovviamente non sapere, essendo essere esterno alla società, insomma mi pare una cazzata. Ma non sanno proprio niente sti amici e parenti, No, sono per carità, si può dire qualunque cosa. Però adesso... comunque, la mia contestazione a Renzi non è cosa fa il babbo, è che oggi sono usciti i dati sulla pressione fiscale, qua siamo sulla radio di Confindustria, che è tornata al 43,5%, che è da quarto mondo. Vabbè, quindi... che Renzi non abbia abbassato le tasse mi sembra una cosa che tutti gli italiani, percepiscono, dai. Italiani che ha abbassato le tasse. Vabbè, ma quella è una boiata, dai, su, quella è una boiata pazzesca. Renzi le tasse non le ha abbassate, nessuno di noi si è accorto che Renzi ha abbassato le tasse, dai, su, questo è abbastanza chiaro. Poi ci possono essere piccoli ritocchi da una parte e dall'altra, vero, ma nel complesso le tasse non sono calate in Italia, questo mi pare. È questo che gli contesto. Bisogna vedere se siete capaci, bisogna vedere se siete capaci di farlo voi, quando ci sei, quando allora, ci sarete. Abbiamo una proposta documentata. Senti, però ti voglio chiedere, comunque la ministra Boschi è stata sentita da 2 anni. Ti voglio chiedere una cosa, Matteo, ma secondo te che rapporto c'è tra la Boschi e Renzi? Cioè, che tipo di rapporto c'è? A me lo chiedi, che ne so. No, che rapporto c'è? C'è un rapporto politico molto stretto, evidentemente, visto che la difende dalla mattina alla sera. Esatto, ma siccome una volta il conduttore di come si di Ballarò parlò di rapporti incestuosi, no? Che parlando dei rapporti familiari, no, ma non parlava di cose sessuali, parlava di rapporti incestuosi familiari, no? Cioè all'interno del governo. C'è questo rapporto, secondo te? Cioè il governo è pieno di conflitti di interesse o no? Familiari? Tra amici, papà, fratelli, conoscenti, al confronto il governo Berlusconi era un governo di vergini. Al confronto dei conflitti di interesse del governo Renzi... Questo non credo. Voi però sui conflitti di interesse di Berlusconi all'epoca non strepitavate, non dicevate nulla sui conflitti di interesse. No, infatti, guarda, io sto contestando Renzi perché non sta facendo quello che ha promesso. Poi è evidente che lì fra papà amministratori, fratelli dirigenti, cugini consulenti, finanzieri e finanziatori nominati di qua e di là, se io facessi la metà delle cose che sta facendo Renzi da leghista sarei... già sotto processo da 1 anno. Senti, no, ma forse tu hai capito male prima. Io non dicevo Raggi, quando dicevo Razzi. Ma Razzi, che è candidato sindaco di Roma, Razzi. No, ma veramente dicevo Razzi. Lottaggio, Razzi Bertolaso. No, voglio dire, se ti trovassi di fronte Razzi e Bertolaso, chi sceglieresti? Probabilmente sceglierei Bertolaso. Con tutta la simpatia per Razzi, che è molto ma meno... Ma no, tra Razzi e Bertolaso scegli Bertolaso. Scegli Bertolaso. Beh, ma che delusione. Che Che per delusione. Per un condominio, per andare in gita. Di un condominio, sì. Per andare in gita in Corea, sceglieresti. Non penso che i romani si troveranno ad affrontare questo dilemma. Senti, ma Montezemolo deve lasciare, siccome pare che anche lui abbia dei conti, eccetera, deve lasciare la dirigenza là di questa cosa di Roma 2024? Dai, la cosa delle Olimpiadi? Ma guarda, secondo me non hanno senso le Olimpiadi a Roma, a prescindere da chi sia il presidente. Poi ho letto che non ha smentito, non lo so. Secondo me Roma ha bisogno di cura, di progetti, di tutto, non di Olimpiadi. Tanto esatto. Mi è arrivata una foto, ecco la prossima idea della Rozza, come il sindaco di Vilnius che ha demolito una macchina in divieto con un blindato. Adesso non so se la foto sia vera, ma c'è un blindato con due tizi. Se l'avessi fatto io... Una cosa del con le ruspe, cosa... perché non agi? Chi? Beh, la vernice era indelebile, ruspe... ragazzi belli, però su. La vernice era inchiostro simpatico. È il gesto che conta, dai, su. Non è la vernice. Comunque, se sei assessore, devi risolvere i problemi. Io, purtroppo, in questo momento sono all'opposizione, quindi non ho tanta possibilità di risolverli né a Roma né a Bruxelles. Ma se fossi assessore, lavorerei per avere qualche posto auto in più e qualche multa in meno a Milano invece che andare in giro con la vernice. Senti, Trump ha detto di essere contro l'aborto, il tuo tuo candidato preferito in America. Trump ha detto che è contro l'aborto, addirittura bisognerebbe punire le donne che fanno l'aborto. Sei d'accordo? No. Ma tu sei a favore dell'aborto o lo toglieresti? Questa deve essere una libera scelta delle donne. Cioè tu sei a favore dell'aborto? Io sono a favore alla possibilità di scelta delle donne. Vabbè, quello è chiaro. E quindi di abortire. Da questo punto di vista non sono d'accordo con Trump, come quando chiese di oscurare internet. Detto questo, è una ventata di freschezza pulizia che di cui si sente il bisogno, perché la Clinton penso sia il peggio del peggio del peggio del passato. Senti Parenzo, ma veramente tu sei convinto che gli immigrati che protestano per strada perché hanno un arancio, chiamiamolo così, anche se non è un rancio, un vero e proprio pranzo, eccetera, siano da elogiare? Cioè, fanno una protesta per strada, occupano la strada. No, ma stai attento, uno li può anche capire, ovviamente. Perché siccome intanto questi sono tutto il giorno lì senza fare nulla, e già questo invece andrebbe trovata una soluzione, andrebbe mandati dei mediatori culturali, andrebbe trovato il modo per impiegargli. Andrebbe trovato il modo per impiegargli il tempo. Primo. Secondo, la questione del cibo non è che tu gli dai la prima roba che ti capita. Cioè, intanto la questione dei menù differenziati è una questione fondamentale. No, ma ragazzi, hai letto il menù che viene dato? Mi sembra un menù dignitoso, dignitosissimo, anzi, non dignitoso. L'altro giorno, sì, poi ti sei scandalizzato perché continuavi a dire: oh, mangiano la frutta tutti i giorni. Io ho detto: figurati. Dategli anche un dessert, un gelato. Sì, dessert, un dolce, gelato, poi gli diamo tutto, dolcetto. Come diceva l'amico. Cioè, là. Non si capisce, ma che cosa cambia? Non si capisce. Il costo non è che cambia, cioè, da mangiare devi dare mangiare, taglielo in modo dignitoso. Sì, ma se tu protesti per strada, quattro volte al giorno il riso, sei ospite qui da noi e poi protesti per strada, dai, su. Ma cosa c'entra? Poi gli danno questa roba qui delle tessere, no? Che gli danno, abbiamo detto, le tessere. Ma scusa, Parenzo, ma sei convinto di quello che stai dicendo o fa parte di un copione? Sono assolutamente convinto che vanno dati i soldi in contanti. I soldi che quelli che teoricamente dicono di essere in fuga dalla guerra si incazzano se non mangiano il gelato. No, ma soprattutto no, ma il gelato, tanto i bardi gli danno la frutta ogni tanto. Soprattutto vuole dare i soldi in contanti. I soldi in contanti e non le tessere, capito? Sì, perché si rendono molto di più conto di cosa, del costo delle cose piuttosto che la tessera. Sai, cioè, per chi viene da... Ti rendi conto che stai parlando in un paese con 1.400.000 bambini sotto la soglia di povertà? Sì, con d'accordo, vabbè, la solita cosa della guerra tra poveri, va bene. Ma no, scusami, se già poveri gli danno la tessera per fare gli acquisti, nel io paese dico... Del Bengodi, io regalo gelati a chiunque passeggi. Ma come per regalo? Strada. Con 4 ma milioni di regalo? Italiani disoccupati? Ma io ti regalo... Ma mettere nel menù secondo te una pallina di gelato alla crema, ma quel menù ad esempio, è, quel menù inficia è così, che... viene, deve essere costruito in modo intelligente, quel menù inficia le nostre casse. Ragionamenti come questi sono le migliori credenziali per chi vuole venire qua. Cioè secondo te bisognerebbe dare meno da mangiare rispetto a quello che danno? No, dar meno da mangiare, innanzitutto in un mese se non ti fai identificare, via. Subito, se non ti fai identificare all'inizio, via. Però questo è giusto, se non ti fai identificare, tu vieni qua e non ti fai identificare. Perché devi dare, certo, qua, bene, colazione, pranzo e cena e non ti fai neanche identificare. Cioè chi non si fa identificare è cacciato subito. Sì, poi visto che i rifugiati politici riconosciuti come tali sono il 3%, allora? Ragazzi, gli altri 97 ce li teniamo sul gruppone noi. Senti una cosa, una cosa finale. A Milano ho letto che sta, io sai che sono molto appassionato al tema vegani, sta per aprire, anzi forse ha aperto, un asilo vegano. Tu lo proibiresti? Ti giuro, un asilo vegano. Io per carità non lo proibirei, perché ognuno è libero di educare un i figli come vuole. Un asilo tutto vegano. Io sono ben contento di star tirando su, non io, ma le mamme fortunatamente dei bimbi che mangiano carne, pesce, frutta, verdura, formaggio, latte e qualsiasi cosa per una dieta equilibrata, non sono per l'oltranzismo alimentare, quindi se c'è qualcuno che vuole mandare il bimbo all'asilo vegano, per carità di Dio, libero di farlo. Ciao, presto, ciao. Ciao, ciao caro. Bruci... La Zanzara. Allora ragazzi, andiamo a Roma, Pasquale, vai. Sì, volevo dire che sono violoncellista, l'amico di Putin, quello. Sei violoncellista amico di Putin, sì. 100 milioni, no. Non credo che tu sei violoncellista. Sono violoncellista veramente, però dai, sono 40 minuti sto ascoltando e tra questi 20, 10, 15, non so quanto, ho sentito Salvini che non si può proprio sentire, l'Islam non matura, cioè come si fa a dire una frase così, comunque... Vabbè, non ho chiamato per questo, ho chiamato perché io sono proprio animalista, di quelli seri proprio. Di quelli seri, animalisti seri. Di quelli seri, bravo. E allora? Seri per modo di dire, vediamo adesso. Adesso, adesso ti provo che gli animali sono meglio di te. Ci faccio una scommessa. Gli animali sono meglio di me? Sì. Sì, vabbè. Allora, l'altro giorno, l'altra settimana. Sì, a fare i salti, probabilmente a correre sono meglio di me, sì. Cioè, nella corsa un cane sicuramente va più veloce di me, non c'è dubbio. Anche una lepre. Ha chiamato un tipo e te gli hai chiesto, ma che c'aveva un gatto, te gli hai chiesto, ma te fai fuori me o un gatto? E questo non rispondeva, ma è un gatto, ma è un gatto, mi fai te, oh, sto incazzato, ma è un gatto, ma è un gatto. Naturalmente a questo non gli viene a dire te, però gli dispiace per il suo gatto. Allora lì mi hai proprio stimolato, ho detto, ma perché io farei fuori te e non il gatto? Perché se per esempio prendi un labrador, sai di questi che stanno all'aeroporto e che scovano la bomba dentro il bagagliaio e stanno prendiamo questi, salvano, cani utili. Cani utili e salvano, vabbè, salvano 100 vite umane, 50, 60. Vabbè, oppure i cani antidroga, che ne so. Dico, fra te che dici un sacco di cazzate tutte le serie, simpatico, io ti seguo, figurati. E allora? Fra te che dici tutte queste cazzate, che non servono un cazzo, perché le cose dici non servono un cazzo, di certo non salvano vita umana, questo te lo garantisco. E questo cane, chi faresti fuori te? Ma dai, su, non dire stupida, ma io a me non lo puoi chiedere. La stessa domanda a me non che hai fatto a quello di del gatto. A me non lo puoi chiedere però, perché come no? Se devo scegliere, ma tu sai che quei cani vengono ammaestrati. Ma tu sai che quei cani, ma tu sai che il famoso labrador che hai citato è stato ammaestrato dai uomini a fare quelle cose? Ma è il labrador, anche gli uomini sono ammaestrati. Capito? Quindi uomini. Chi dice che gli animali devono vivere nel loro stato di natura? Dicono una stupidaggine. Ma chi dice che gli animali devono vivere al loro stato? Perché il cavallo è nato per essere cavalcato, l'asino è nato per trainare la carrozzella e aiuta sempre a aiutare l'uomo. Ma da sempre è così. Un altro ragionamento. Cavallo non deve essere cavalcato. Ma chi dite? E non lascia molte chance, sì, Pasquale se ma no, stai sul cazzo ti riattacca, ma non lo puoi, allora, non dire stupidaggini, ti dico, dai. Ti dico, tra Cruciani e un cane come il labrador, chi fai fuori? Come ma che vuol lì, dire, ma non lo puoi chiedere a me, io è chiaro che salvo me stesso, che cazzo di domanda è, dai, su Pasquale. Ok, allora te ne faccio un'altra. Allora io ti voglio solo dire che nel genere come posso dire animale, comprendendoci anche gli uomini, non si tratta di fare una classifica, tu sei meglio dell'altro, perché se no ci sarà sempre un uomo meglio di te, una donna meglio di te, ci sarà sempre qualcuno meglio di te da non far fuori, prima di te. Vabbè, allora? Capisci? E allora, il problema è questo, e tu non capisci che le persone, gli animali, le cose che vivono... hanno un valore per quello che sono, non per una classifica che tu fai. Va bene. Mario Milano, ciao Pasquale. Mario Milano, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao Lorenzo. Dimmi. Una cosa al volo, io sono perfettamente d'accordo con la Rozza, ha fatto più che bene. Perché? Perché non possiamo vivere in una città dove ci sono questi prepotenti che rovinano un'iniziativa come quella, perché c'erano un mucchio di cittadini a lavorare in quella scuola. Ed è stato un atto dimostrativo quello della Rozza, perché dopo è stata ripulita immediatamente la macchina. Mi stupisce Basilio Rizzo che prende posizioni contro la Rozza, le fondazioni comuniste, gli attacchi soprattutto da sinistra non li concepisco in questo caso. Mario, che cosa vuoi? Tu eri lì, non ho capito. Sì, ero lì, ha fatto bene Carmela, non poteva fare altrimenti. Ma che vuol dire non poteva fare altrimenti? Uno può, puoi chiamare il carro attrezzi e far portare via la macchina. Metti la multa sopra la macchina e basta. Ha voluto fare un gesto eclatante, però io ci ha messo la faccia, però, al contrario di tante Ci ha messo la faccia, non è chiaro che ci ha messo la faccia. L'ha fatto lei il gesto, ci ha messo la faccia, sì, non c'è dubbio. Condivido in pieno quello che Hai condiviso in pieno. Bene, Salvatore da Siracusa, vai. Sì, ciao. Dimmi. Senti, mi hanno chiesto, dice, cosa ne pensi di Parenzo? Ho detto, è un comico. Non voglio offendere assolutamente. Non è un'offesa, non è un'offesa. Parlando degli extracomunitari. Non è un'offesa, infatti, eh? No, no, ma non lo voglio offendere. Dico, parlando degli extracomunitari, sì, mi chiedo, posso avere anch'io una tessera, io e tutta la mia famiglia? Non sì, voglio i contanti, voglio la tessera, come sì, loro. Esistono degli altri aiuti sì, che vengono erogati così, alle persone che non ce la fanno. Esistono per gli italiani che non ce la fanno e sono tanti, esistono sì, contributi, sgravi fiscali, cose che devono essere aumentate ovviamente, ma non hanno aumentate, nulla che non hanno nulla a che vedere con l'assistenza a chi arriva qua, perché ragazzi, non arrendetevi, come dice Cruciani in questo caso, arrendetevi, non c'è soluzione, le migrazioni continueranno per i prossimi 30 anni, cambieranno per fortuna il nostro paese, in bene anche in peggio. Tu lo sai che in Australia è stato negato l'ingresso a 90 bambini, sono stati rispediti indietro. L'Australia, non so di che. Che c'entra l'Australia, che è un paese, cosa c'entra, che è un'isola con dei confini, con delle... ma che c'entra? Hanno rispedito indietro 90 bambini, 90 bambini, e dico solo l'Australia. Questo. Cruciani, non mollare, i nazi vegani non vinceranno mai. La Zanzara. Allora, mi stanno talmente su coglioni in questo periodo, come sapete, i super vegani, i nazi vegani, che ormai è diventato un marchio, hai sentito Parenzo, è dappertutto. Tutti quanti dicono la parola nazi vegani, sì, coniata qui alla Zanzara. Sì, sì. Che ho ordinato dei preservativi online, un pacco consistente di preservativi. Perché tu ancora usi quella roba? Beh, sì. Cioè ancora tu pratichi quella cosa? Beh, certo, che cosa cazzo antica, fai, è chiusa, finita, dai, non serve. Quindi, più. Se hai rapporti plurimi con diverse persone, ma come no, ma in generale, fai? Dico, ancora stai lì a fare sta cosa dove si sa già come finisce. Cioè il sesso, dici? Sì, ma dico in generale appunto. Sì, però hai ragione, in fin dei conti, dovrei anche smettere. Però fin quando reggo, oppure finché ancora c'ho voglia, avendo io, come andiamo dire, avanti, rapporti sì, plurimi, come però fai dire, presto, no? Quando se li fai presto. Quando parlo di queste cose devo fare presto. No, quando sei nell'atto, quando sei nell'atto, secondo me, le tue compagne, cioè, quando sto scopando, fai presto. Andiamo avanti, dai. Ho ordinato dei preservativi al bacon. All'odore di bacon. Cosa vuol dire? Ti giuro, esistono. Ma che porcheria. No, dai. Che porcheria, assolutamente. Ma sei matto, forte. No, li ho ordinati su internet, ragazzi, dei preservativi al bacon. Ma non è vero. No, non è vero. Allora, ti assicuro, quando mi arriveranno te li mostrerò. Schifo, però, dai. Dei condom al bacon. Ma al bacon. Che uno li mangia. Mamma mia. Voglio alimentare l'industria della carne, capito? Voglio alimentare l'industria della carne. Dunque, preservativi al bacon. Al bacon. Mauro da Mantova, vai Mauro! No! Mauro, è tornato Mauro. No, Mauro, con calma, Mauro, con calma. No. Con calma, se no altrimenti succede un casino. Con calma, parti piano, poi fai quello che vuoi. Però parti piano e non ti fissare su sti ebrei ogni volta, perché sennò altrimenti è noioso. È noioso e Parenzo non ti... Dimmi. Il problema del parcheggio disabile non è mai stato un problema. Io ho il parcheggio disabile regolare dal 2000. Beh, per forza, questo spiega tutto. Ma ascolta, mettimi un questo uccello in bocca tutto. Però questo mettimi spiega tutto, dai. Questa telefonata hai fatto bene questa volta a passarlo. Bravo, Cruciani. Aspetta, Mauro. Questa volta hai fatto benissimo, Cruciani, perché si spiega tutto. Due anni di racconto di Mauro Madamantova alla Zanzara, tutti si chiedono chi cazzo è, chi cazzo è. Si spiega tutto. Bravo, Cruciani. E si capisce. Ma sì, vabbè, Mauro, Mauro, Mauro, bisogna avere rispetto per i disabili. Allora, prego, ti spiego. Sì. Io quando dovevo parcheggiare, un disabile mentale, e che c'erano, e che c'erano i parcheggi disabili impegnati, sì, io non chiamavo i vigili o la stradale. Sì. Non era un problema che per me. Che facevi? Io mi appoggiavo con la mia macchina che ha 320 cavalli, sì, mi appoggiavo in retromarcia, la spingevo indietro 8, 10, 12 metri, sì, e poi ci parcheggiavo io. Cioè che facevi? La tamponata. La spingevo indietro. Cioè che facevi sfondavi l'altra macchina? Cioè, sono cazzi suoi. Ah, okay, ma sfondavi pure la tua, sfondavi pure la tua però, amico no, mio. La mia, no, bello, la mia è svedese, la mia è una Saab, fatta in acciaio, non si sfonda. Le Fiat sì, perché sono macchine di merda, ma siccome la mia è in acciaio, la mia non ha mai fatto neanche una piega. Un spostavo, Panzer, che roba, un carro armato. Spostavo i furgoni con la mia macchina, perché la macchina ha 320 cavalli, di spinta ne ha tanta, te lo posso garantire. Sì. Perché la mia di originale non ha nulla. Sul libretto ne ha 146. Vabbè, tutti d'accordo. I copano, ce ne sono 320. Vabbè, è d'accordo, questo qua tu, diciamo, tratti quelli che... Tratti solo quelli... una volta, solo una volta, solo una volta il problema. E sai che aveva parcheggiato là? De Benedetti! Ma veramente, a Mantova, la macchina di De Benedetti c'era! Sai chi? De Benedetti! E Madoff! E De Benedetti! E la Lehman Brothers aveva parcheggiato là! Guarda, Mantova, figurati, va De Benedetti, che se ne frega. Sai perché? Vabbè, abbiamo capito che tu risolvi, allora, che tu risolvi le questioni in maniera spiccia. No, ma solo una volta ho avuto un problema. Che un meridionale, un pugliese, mi fa: oh, ci te muorte, ma come te lo traduco? Sì. Chi te muorte è la macchina mia. Sì. E io gli ho detto: perché? Qual è il problema? E poi me l'hai spinto dietro. No, sei fortunato, che te lo spinta solo 8-10 metri. La prossima volta te la spingo fino all'ospedale, ok? Qui ci parcheggiano, okay, chi è in pace. Non chi non ce l'ha. Capito, ragazzo? Vabbè, non ma, no, ma, per... ma perché tu hai il pass per i disabili? Non ho capito. Perché io ho subito due bypass al cuore nel 1999. No, ma il cervello anche. Stai zitto, testa di cazzo, che non capisci niente. Allora, Mauro, che cosa mi dovevi dire? Spiegami. Per quanto riguarda la Boschi, sì, ma ascolta, ma quel deficiente di Renzi, credo di andare da bere a me. Perché? È stato messo lì dalle lobby. Attento? Delle multinazionali. Delle multinazionali. Quindi, aspetta. Vuole venire a farmi credere che gli asini volano? Oh, bello! Ma che sono mica nato ieri. Vabbè, e ma poi, certo. E poi un'altra cosa. Come i conti correnti, i soldi e i paradisi fiscali? Oh, bello! Io nel 2010 sapevo che all'UBS, sapevo agenzia tutto. Di Zurigo, avevano i soldi, De Benedetti. Eccola. Per forza. È evidente. Con la lista, Falciani. La lista Pacciani. Falciani. Sai chi è Falciani? Mamma mia. Come mai? E come mai? Allora spieghi i Falciani perché? Perché? Non vengono vecchi quei nomi lì. Poi ti racconto una news della settimana scorsa. La news, questa, sentiamo la news. Tu non la sai, non la sai. No, no, non la sa nessuno che questa figura, dimmi, dimmi. Uno scoop internazionale. Qui a Mantova, tutto a Mantova succede. Fa, mamma mia, qui, che città. Qui a Mantova pioveva. Sì. Pioveva a Mantova, non è una notizia un questa. Coglione, comunque. Sì. Un coglione sì. Che ha caricato un trans. Sì. Ha fatto la curva del lungo lago un po' troppo veloce. Sì. Ha capottato e gli è finito in mezzo ai giardini. È strano che questa notizia non sia lì, sul sole. Se chi era quel tipo lì con il trans a bordo? De Benedetti! Chi era? No, chi era? Matteo Colaninno! Ma no, no, adesso ma scusa, questa... ma lei è proprio un idiota. No. Lei no. È proprio un cretino. No, vabbè, adesso lei è un idiota. No, ragazzi, lei è un diffamatore di professione. E io spero. Lei è un diffamatore schifoso di professione. Lei è un diffamatore. Lei deve chiedere. Io spero che le portino via anche il pass da disabile, non soltanto tutto il resto. Le devono portare via anche il pass. Ma lei è veramente un... Io mi auguro però, che le portino via tutto. Io mi auguro che le portino via tutto quel che non ha. Perché non ha niente lei. Ma che conosci tutti? Ma che significa? Ma che dai, che significa? Ascolta, diffamatore di professione, cretino. Ma chi hanno beccato con un trans? Diffamatore, sei un diffamatore di professione. diffamatore, diffamatore. Piano, fermi. Chiudilo, fermi. Chiudilo sto diffamatore, imbecille, diffamatore. Fermo lì, fermi. Diffamatore, fermi, zitti. Diffamatore, stai zitto, stai zitto. Hai superato il limite. Diffamatore, stai zitto. Diffamatore, sei un diffamatore. Zitto, stai zitto. Zitto! Diffamatore, zitto! Stai zitto! Diffamatore schifoso! Zitto! I'm a real wild one. Si può mai fare un discorso serio con, con Mauro? Adesso, ma guarda, è un diffamatore schifoso. Ma dice delle cose assurde, io quello beccato con un trance. Io spero che gli cavino la pelle, come si dice tecnicamente. Mauro. Ancora. No, gli no, ancora lì o no? Pelle. Mauro! Cavare la pelle. Ma, devi, ma perché, fai la pelle. Perché fai sempre così? Dimmi, perché fai sempre così? Perché lui non deve parlare con me. Stai, ma perché per zitto? Ti ha fatto perdere. Diffamatore schifoso. Io zitto. Basta. Con hai lordato già troppa gente. Basta. Io parlo con le persone intelligenti. Pagherai tutto. Basta. Stai zitto. Basta. Stai zitto. Zitto. Zitto schifoso, diffamatore, ti porteranno via tutto. Mamma mia. Ma perché? Perché? Ma perché ti ma perché perdi? Voglio parlare con lui. Ma perché perdi la brocca quando senti Parenzo? Spiegami perché. Perché io lo odio a Marte. Ce lo ammazzeresti? Io sì, ma che con le mie mani. No, vabbè, io ma ti faccio... Allora, Giuseppe, diffamatore schifoso. Quel coglione lì di insultare mio padre e mia madre. Quando ha insultato? Io non me lo sono mai permesso. Diffamatore. Anche se avessi avuto tutti i diritti per aver fatto un coglione. Dai, allora, zitto. Però qui c'è scritto fuori strada si ribalta sul lungo lago, ferito Michele Colaninno, Michele Colaninno. Beh, vabbè, e chi è quello lì? È mica sempre il fratello di Matteo? Sì, ho capito, ma si è ribaltata la macchina. Stupido. Che cazzo ne sai che era col trans? Scusa, come dici tu? Ma sei impazzito, sei? Beh, diffamatore. So, quello che l'ha soccorso col carro attrezzi, che non l'ha divulgata la notizia. Ma io so che aveva su un trans. Vabbè, okay, ma dai, su. Diffamatore, speriamo che ti porti via tutto, guarda. Ma dai, su. Caricato in cartiera. Diffamatore sei. Tra la cartiera e la favorita dove fai schifo, fai schifo, altro che zitto, coglione, fai schifo, cazzo. Fai cazzo, è la fine tua, via. Finirai con questa chiamata, vedrai che ti portano via tutto per fortuna. Vegani, non vegani, ma sti cazzi. La vera domanda è: Mauro da Mantova l'ha preso il porto d'armi? Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Ho 17 anni e sono già drogato della zanzara. Cruciani, ma un vegano quando guida la macchina in autostrada e schiaccia tutti i moscerini sul vetro, ma che tipo di reazioni ha? Ma. Ma Cruciani, lasciali perdere a quelli, vorrei vedere quando stanno male, che sono contro la sperimentazione degli animali, che fanno? Si mettono le supposte di cicoria? Si mettono le supposte di cicoria? Siamo con te, non mollare, vaffanculo, ciao. Cruciani, sto cagando. No, non c'è cosa migliore che ascoltare la zanzara mentre stai cagando. Il vegano che se ti vede mangiare il panino prova a sputacchiarti dentro. Ma stiamo scherzando. Ma vaffanculo, adesso mi mangio un controfiletto di bovino al sangue, deve fare ancora esagerato ragazzo, deve fare ancora mu. Questo è un insulto, tu capisci che loro pensano che se tu dici queste cose è un insulto. Ma hai sentito quello che stava cagando sentendo la zanzara? Sì, fa schifo. Stava facendo lo sforzo, schifo. Era al massimo dello sforzo. Schifo. Allora, ieri abbiamo scoperto durante la prestigiosissima trasmissione, lo dico solo perché ho partecipato, no, sto scherzando, sì, naturalmente, sì, fuori onda condotta da Parenzo e Labate, sì, abbiamo scoperto, sì, una cosa, che la signora 20 e 30, 21 e 15 sulla serie tutte le domeniche. Avanti, avanti. La signora Rosita Celentano, Rosita, sì, Celentano, che su questa emittente conduce una trasmissione, devo dire anche bella, divertente, fortunata, che si chiama Non esageriamo. Chiedimi se sono felice, il mondo visto dalla prospettiva del cane. Un titolo un po' lungo però, eh. Sì, no, ci vuole una puntata, cioè, per dirlo. Ci vuole una puntata intera. Cioè, quando dicono il titolo, finisce il tempo della puntata. Allora, signora Celentano, Rosita Celentano, sì, ha delle scarpe, indossava delle scarpe di pelle. Vabbè, se tu gliel'hai fatto sobriamente notare. No, io ho detto, scusa, una che è contro, cioè, gli animali e gli uomini sono la stessa cosa. Vegana, la questione etica, e gli animali non bisogna toccarli, e addirittura è a favore quasi dell'estinzione del genere umano. Dice, se il mondo finirebbe senza gli animali, le api, eccetera, eccetera, invece senza uomini sopravviverebbe il mondo. E uno può dire, beh, chi se ne frega, no? Se il mondo vive lo stesso con gli animali e senza gli umani, dice, vabbè, ma e allora? E allora? Comunque, una che dice tutto questo, che fai? Te presenti in televisione con le scarpe di pelle, amica mia? Beh. Ma cambia delle scarpe, no? Fai finta, mettiti un paio di scarpe con, non lo so, di corda. Cioè, però non di trovo erba. Una grande contraddizione. Le scarpe di pelle. Le scarpe di pelle animale. Frutto della macellazione, frutto della tortura, come dice lei, degli animali. Ma signora Celentano, su. Tanto le scarpe di pelle sono di pelle, quelle scarpe? Come sono quelle scarpe di pelle? O di pelle, queste di ecopelle sono sicura. Ecopelle, quelle scarpe di pelle d'animale. Ringrazio, tu vegana, c'è la storia delle scarpe di pelle che porti. Ma di fatti, hai delle scarpe di pelle d'animale che vengono d'animale. Certo, ma di fatti. Celentano, se vuoi ringraziare Luciani, fallo subito che stiamo chiudendo. Perché vuoi ringraziare scarpe di pelle? Scarpe di pelle da morte di animale. Perché vuoi ringraziare Luciani? Io no. Beh, ti rendi conto o no? Cioè, le scarpe di pelle, dai ragazzi, su. Adesso c'è un amico, Michele Anselmi, che è un critico cinematografico, che mi ha scritto una cosa lunghissima sulla signora Cannata, da cui si evince, avevo letto anche ieri, che è una di quelle militante del Chiapas, la militante su terzomondista, una cosa che completa il quadro, come dire, no? No, si, ma perché? Si completa il quadro, si completa il quadro. Il quadro. Va bene, dai, andiamo a Roma. Andrea, vai, Andrea. Eccolo qui. Pronto, vai. Buonasera, vai, Andrea, buonasera. Ma chi è quel disturbato da Mantova lì che chiamava? Brava, beh, parola esatta, ragazzi, non mi dovete toccare Mauro. Vabbè, da Mantova. Veloce, è intoccabile, presento, cioè intoccabile nel senso che il mondo, ti presento il mondo visto dalla prospettiva del padre del disabile. Tu sei padre di un disabile? Io. Ok. Sì, sì, esattamente. Adriano, 12 anni. Allora, sì, io giro con un, diciamo, un punteruolo, un cacciavite nello zaino, sì, sì, ok? E io, quando trovo la macchina messa sullo scivolo, messa dove non deve, io lascio la, invece della Z di Zorro, io lascio la A di Adriano, ok? Lascio un mio scarabocchio personale che mi sono inventato io. Sì. Cioè tu, quando linea, trovi, scusami, sì, quando sì, trovi sì, un sì, parcheggio sì, per disabili, immagino quello sotto casa tua, insomma. No, sotto casa non ce l'ho perché c'ho un posto dentro, quindi non l'ho chiesto, quindi sì, non mi è servito, sì, chiedere. E allora dov'è, posto... dov'è che timbri con una... girando per la città, cioè anche quando non ti occupano un posto, non occupano il tuo posto, che no, non hai, insomma. Giro col bambino, no? Quando non riesco a passare da uno scivolo perché, sì, c'è una macchina parcheggiata, c'ho anche la mia, sì, specie di, sì, classifica personale delle macchine parcheggiate, perché in testa ci sono le mini, sì, poi in seconda posizione ci sono le smart, poi dopo arrivano le altre, cioè tipo una specie di classifica sparsa, però diciamo che quando c'è io lascio la A di Adriano, lascio uno scarabocchio, cioè, mio. Tu stai dicendo, a te non te ne frega niente, quando trovo un ostacolo assolutamente non me ne per tuo figlio, praticamente, sì, righi la macchina con un A. Io, esattamente, anche per, a posto dei figli degli altri, capito? Anche se ci posso passare io, però non ci può passare il figlio di un altro, io gli lascio lo scarabocchio. E non so, Parenzo, non so come rispondere ad Andrea, perché da una parte posso capire, perché la stessa, io capisco la rabbia, la stessa cosa, genitore, che provo io, per esempio, no, no, quando io, guarda, poi io ho giocato seconda linea a rugby, quindi sì, aspetto tranquillo aspetto lì pure che scende. Vabbè, adesso tuo figlio, okay, magari non vuole aspettare, scusa, aspetta, no, certo, ma mio figlio è impaziente, vuole scappare, se ne va sempre, però diciamo quando poi scende, magari perché l'ha visto, perché l'hanno chiamato, sì, io sto là. E che succede? Raccontaci qualche cosa di quello che è successo. No, allora, succede niente, perché, come dire, ti vedono e scappano, che fanno? Dicono mi scusi, ha ragione lei. No, non scappano, no, magari provano, argomentano in qualche modo, però insomma, come dire, io riesco in qualche modo a fronteggiare, no, l'argomentazione. Sì, sì. No, però allora, magari perché peso 110, no? Parenzo, che dire ad Andrea? C'è qualcuno che potrebbe dire, beh amico mio, ti denuncio, se ti vede ti denuncio, sì, perché mi hai rigato, certo, la macchina. Assolutamente, ma sai come diceva lui, il grande capo sti cazzi. C'è presente il grande capo sti cazzi? Ma no, è chiaro che non si può istigare a rigare le macchine. Dice, È giusto che il proprietario denuncia, è giusto. Però è dai, giusto, Andrea c'ha ragione. A parte che sono già talmente pochi. Sì, però posti è facile dare ragione ad Andrea, che è il padre di un disabile che si trova oggettivamente in grandissima difficoltà quando deve magari passare e c'è una macchina che costruisce il passaggio. Dunque, è difficile dare contro ad una persona che ha comunque da gestire una cosa del genere. No, non riesco. Però l'assessora sì, ha fatto un gesto dimostrativo, credo che abbia usato vernice pure ad acqua. No, non dire l'assessora che mi dà fastidio, l'assessore. Vabbè, l'assessore. Noi non siamo boldrinizzati qui. La boldrina la prendere a calci nel sedere, figuriamo. Non siamo boldrinizzati qui. No, nemmeno no, ma io, scherzo, dai, comunque. L'ultimo dei boldriniani, l'ultimo dei vegani, dai, su. Però Andrea, guarda, che ti devo dire? Aspettati che ti arriva una denuncia, prima o poi dici sti cazzi. Vabbè. Cioè, prima o poi la denuncia arriva a tutti, è arrivata pure a te. No, a me mi hanno rigato la macchina, ma era una stalker, però. Mi ha rigato la macchina. Vabbè, ma quello è diverso, vabbè, non so a quelli. Insomma, no, il tuo è un problema più grave, insomma, oggettivamente più grave, per carità, però sì, non è che dico avere un bambino disabile è un problema grave, non lo voglio dire, perché è comunque un problema. È un problema, tutti hanno i problemi, no? Ognuno ha i problemi, io ho detto il mio. Pensa quanti ne ha Mauro da Manto. Ciao, Massimiliano, Milano, vai. Sì, ciao Giuseppe. La signora assessora Rozza, secondo me, ha fatto una cagata peggiore di quella che ha fatto il signore che ha messo via la macchina, perché tu non ti puoi permettere di fare una cosa del genere. Ci sono i vigili, ci sono i ceppi, ci sono i carri attrezzi. Era lavabile, vernice lavabile, inchiostro simpatico, inchiostro. Ma non me ne frega simpatico. Niente se è inchiostro simpatico che cosa, dai, cioè non esistono i vigili, esistono i ceppi. Non è una vandala, era inchiostro simpatico, cioè che appena lo lavi con un po' d'acqua vai via. Però è quasi non era ovviamente un danno indelebile, ovviamente ci mancherebbe. Non mi interessa, tu sei una persona pubblica, rappresenti, sei un assessore, certe cose non ti puoi permettere di farle, punto. Sì, io da un certo punto di vista la penso come te. È vero anche che il gesto è dimostrativo. Avete difeso, cioè, hai difeso delle cose inverosimili. E quali sarebbero queste cose? Vergognose. Per esempio, di personaggi come quel Formaggio, che per fortuna non si chiama più lì, il sindaco di Gio, non mi ricordo Formaggio, più. Ma eccolo un bel personaggio. Che ha Gio fatto Formaggio delle cose vergognose. Ma che ha fatto? Dimostrative. Miserabili, delle porcherie. E adesso stai qua a discutere perché un assessore, giustamente, vedendo una macchina parcheggiata in un posto dove non doveva stare, in particolare posto per disabili, ha preso un inchiostro simpatico e ha fatto un piccolo segno cancellabile in 40 secondi con dell'acqua e del sapone, e stiamo qui a fare tic-toc rispetto a delle persone abominevoli. Vabbè, come capito, ma Buonanno, che Formaggio ma che e altri adesso personaggi che infestano questa trasmissione. Ora arriva una signora come la Rozza, che è una persona educata, civile, per bene, cioè ha fatto un gesto simbolico non definitivo su quella macchina, ovviamente. Stiamo qui a discutere. Oh, ma forse non doveva. Ma come dai, rispondi, Massimiliano? Guarda, io mi sono sempre fatto domande riguardo alle fughe dei cervelli. Poi sento Parenzo e capisco dove rimangono i corpi. Sì, infatti, qua rimane. Fabio da Padova, dai, Fabio. Fabio, sentiamo Fabio. Aleo, grande Cruciani. Vai, io dimmi. Sono un autotrasportatore, ho girato la Germania per molti anni, volevo dire tutto il mondo e il paese, e allora? Però l'unica cosa in più che hanno i tedeschi è che ci sono la polizia che funziona, è la polizia che funziona, che fa i controlli, che anche sui grandi centri la polizia girando vedono le macchine anche posteggiate male. No, ma infatti il problema no, è quello. Non è che c'è bisogno dell'educazione che abbiamo in Italia. Ma non è che c'è bisogno ma non è che c'è bisogno della ruspa sopra le macchine o dei carmati come a Vilnius, se è vera quella foto, oppure della mazza da baseball come un ascoltatore di prima, o di rigare. Evidentemente queste cose ci sono dove i controlli non esistono, perché in altre città dopo 5 minuti che metti la macchina male arriva uno e ti mette 8.540 ganasce e ti porta via la macchina per tutta la vita. Questo è il punto fondamentale, no? Cioè, vabbè, Fabio, allora? E allora più educazione per tutti. Vabbè, d'accordo, più educazione per tutti. Poi? Basta? Poi, volevo dirti, c'ho mio figlio che fa il cuoco, sono un ristorante vegano. E allora? Il proprietario è un macellaio. Provincia di Paola. i vegani, cioè il proprietario di questo ristorante è un macellaio. È un macellaio. Ah sì, ma che sia adeguato, però, che cazzo gliene frega? Ha calato le vendite, lavorando su un piccolo paesino, si è inventato ai soldi, ha creato un ristorante vegano. Certo. Mio figlio lavora come aiuto cuoco e fanno i soldi con le verdure. Ma fanno bene a inculare la gente che pensano che il veganismo, secondo me, è una grande cazzata. Ma non è una cazzata, ognuno può credere a quello che vuole, anche ai israeliani, non so come dirti, no? Anche a Bubù, anche al mondo dell'ipnotismo, uno può credere ai maghi. Può credere all'omeopatia, a Otelma, tante cose. È una cosa diversa, eh? Sì, è un po' diverso, però totalmente. Insomma, alla fine. Stefano D'Alecco, vai. Faccio veloce, buonasera. Volevo solo suggerire a Parenzo per il menù degli Stati Uniti. No, quella è una roba molto seria, guarda, c'è poco da scherzare. Sì, sì. No, volevo dire di... Quella è una roba serissima, vecchio mio. Magari anche all'inizio e poi il braulio alla fine. No, perché sono musulmani e non bevono alcolici. Ecco, va bene. Quindi sei anche ignorante. Cioè, non ho capito, tu volevi aggiungere qualcosa al menù? Essendo anche ignorante, non sai che essendo di religione musulmana, molti di loro... Ma quelli si ubriacano come alcolici. Ma sono tutti musulmani. Ma poi se ne fottono, poi si ubriacano a prescindere dal fatto che sono musulmani. Che cazzo vuol dire? La grappa non si dà. Un po' di spritz, un po' di così sono più contenti. A domani 18:30, ciao. Cruciani è come l'amore, come il vento, come Rocco Siffredi in fila dietro di te al supermercato. Non lo vedi, ma lo percepisci. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.